America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Washington. Mario Platero, fra poche ore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà per la prima volta alla Casa Bianca per un incontro con Barack Obama, ma prima di raccontarvi della visita voglio dedicare la copertina di questa settimana ai Broncos di Denver che hanno vinto ieri notte il Super Bowl, la grande finale del football americano, devo dire la più grande partita spettacolo del mondo, arrivata alla 50ª edizione, dunque partita storica. Altro elemento storico, Manning, il regista dei Broncos, 40 anni il prossimo marzo, pensate, ha giocato questa finale, ha stabilito vari record, tra l'altro proprio ieri sera ha stabilito un nuovo primato con 200 vittorie ed è alla seconda vittoria del Super Bowl. Ecco, detto questo, la partita contro i Panthers della Carolina non è stata eccitante, risultato finale 24-10, poca tensione, però lo spettacolo, devo dire, c'è stato tutto, a partire dall'avvio con l'inno americano interpretato magistralmente da Lady Gaga, la star di origini italo-americane, che si è presentata al centro del palco, tra l'altro vestita con un tailleur rosso, con delle zeppe bianche, rosse e blu, per riprendere i colori della bandiera americana. Il patriottismo è in questa partita, il paese è unito dietro questa finale, per fortuna ci sono degli elementi di questo genere che uniscono il paese, c'era un'enorme bandiera americana distesa per metà del campo sul prato. Sentiamo Lady Gaga. Ma la musica ha dominato anche nell'intervallo, sentiamo. Il Halftime Show, un classico, quest'anno si sono esibiti Coldplay con Bruno Mars e poi Beyoncé, hanno cantato tutti insieme sulle note di Clocks dei Coldplay, i tre hanno chiuso insieme lo spettacolo rendendo omaggio agli altri grandi che prima di loro hanno intrattenuto il pubblico del Super Bowl. Al centro del campo sono passate le immagini di Mick Jagger, Bruce Springsteen, Prince, Katy Perry e molti altri. Altra curiosità, gli spot pubblicitari per il Super Bowl, che sono i più seguiti dell'anno, costavano alla CBS 5 milioni di dollari per 30 secondi. Certo, intanto unisce al di là delle frontiere, semina rispetto per la civiltà, la cultura, la tolleranza. Ecco, visto ieri sera il Presidente della Repubblica, avete sentito una sua dichiarazione sulla cultura, la cultura che unisce. Ieri il Presidente della Repubblica è stato in visita ad Arlington, dove c'è il monumento al Milite Ignoto, ha depositato una corona, poi è andato a visitare la tomba di John Kennedy, era con il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, poi appunto riferimento alla cultura, perché il Presidente è andato in visita alla National Gallery, dove spesso ci sono mostre dedicate alla cultura italiana. Ma l'aspetto più importante di questa visita naturalmente è l'incontro di oggi con Barack Obama. Si parlerà di Libia, della necessità di stabilizzare la Libia, ma nonostante alcuni abbiano scritto che forse ci sono tensioni fra Italia e Stati Uniti, beh, non credo sia il caso. Possono esserci delle posizioni diverse, ci sono sempre in questi casi, però veramente una cosa importante è che in questo momento tutti sono per l'attesa che il nuovo governo libico sia confermato dal Parlamento a Tobruk. Mattarella poi sarà a New York per un incontro al Palazzo di Vetro con il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Bene, passiamo al New Hampshire e alle elezioni difficili di queste primarie americane. And let's dispel once and for all with this fiction that Barack Obama doesn't know what he's doing. He knows exactly what he's doing. Ecco, avete sentito il momento chiave di quello che è stato uno scivolone imprevisto di Marco Rubio quando continuava a ripetere uno slogan contro Barack Obama. Ecco, lui parlava e diceva Barack Obama è un presidente che sa quello che fa, vuole cambiare gli Stati Uniti, e Chris Christie, il governatore del New Jersey, che invece lo attaccava senza pietà, dicendo che un senatore non ha esperienza, e dicendo che lui ripete delle cose perché memorizza questi 25 secondi di slogan senza sapere esattamente quello che dice. E devo dire che Rubio è apparso davvero un attimo sperduto. L'idea che sia lui a diventare presidente degli Stati Uniti improvvisamente ha cominciato a vacillare. Vedremo comunque come andranno queste elezioni martedì, ve lo racconterò mercoledì mattina. Le elezioni saranno naturalmente martedì notte. Da una parte sappiamo, abbiamo Hillary Clinton, anche lei assediata da Bernie Sanders, un esponente della sinistra, e soprattutto in campo repubblicano Donald Trump, che guida la classifica molto tranquillo, circa 30% delle preferenze, ma col tentativo simboleggiato da questo attacco di Christie a contro Rubio, dal tentativo dei governatori, quindi Jeb Bush, John Kasich dell'Ohio, Jeb Bush ex governatore della Florida e appunto Chris Christie, che cercano di recuperare terreno. Mercoledì sapremo come è andata a finire. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!